stato è triste per me. La mia donna non c'è. Deve capire che al sabato un uomo non può restare senza donna e nessuno. Mi fa da mangiare, si mi fa da mangiare, si mi fa da mangiare.